Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Gheddafi al Senato, nulla può ripagare i morti libici, ma l'obiettivo è la pace nel Mediterraneo. La Sapienza, Cori e Fumogeni, anticolonnello. Colpita una pattuglia italiana in Afghanistan, 3 feriti, 1 è grave. Berlusconi dagli artigiani rassicura sulla crisi e poi scherza, scappo per andare al matrimonio tra Noemi e Mills. Parlamentari indagati per il tesoro di Ciancimino, Vizzini lascia l'antimafia. Roberto Saviano a Extra Large, la questione meridionale esiste ancora, dalle elezioni alle nuove alleanze criminali, incontro con l'autore di Gomorra. Affare da record per il calcio, Cristiano Ronaldo al Real Madrid per 93 milioni di euro. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Seconda giornata dunque per il leader libico Gheddafi in Italia. Ha saltato il discorso nell'aula del Senato, il colonnello ha comunque parlato ai senatori in una sala di Palazzo Madama. E allora sentiamolo, il discorso è ancora in corso, queste le parole del colonnello Gheddafi. Essere diversificato tra molti regimi di tutti i tipi, anche quei, quando diciamo che in Iraq c'era la dittatura, se il popolo vuole un regime dittatoriale, ma cerchiamo anche di definire la dittatura, che cosa significa la dittatura? E al Senato sta seguendo il discorso Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Tradizionale tunica bianca copre capo nero, il leader libico sta ancora parlando, l'abbiamo fatto ascoltare qui al Senato, per l'esattezza nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Gheddafi avrebbe dovuto fare il suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, ma le critiche di gran parte dell'opposizione hanno fatto optare per questa soluzione. Non sono mancati comunque segni di protesta anche oggi, alcuni senatori dell'Italia dei Valori hanno atteso davanti Palazzo Giustiniani esibendo un facsimile di un attestato accademico con la scritta laurea horroris causa, con un riferimento alla violazione dei diritti umani. Ma venendo alla parte ufficiale, il presidente del Senato Schifani ha parlato di incontro storico, quello odierno, il trattato di amicizia approvato da un'ampia maggioranza, ha detto ancora Schifani è un ponte verso il futuro. Il superamento dei danni fatti dall'Italia fascista, ha spiegato invece Gheddafi, è stato molto importante, siamo contro il terrorismo e lo condanniamo, ma dobbiamo cercare di capire le ragioni vere di questo fenomeno pernicioso, ha detto il leader libico, che si è poi rivolto ad alcuni vecchi amici protagonisti, ha detto, delle trattative condotte negli ultimi decenni per normalizzare i rapporti bilaterali, tra questi Andreotti, Cossiga e Dini. Gheddafi sta ancora parlando, al termine si recherà. Vincenzo, parole di pace le abbiamo detto anche nei nostri titoli, duro invece è stato l'attacco agli Stati Uniti. Sì, un duro attacco agli Stati Uniti, evidentemente non cambia la posizione di Gheddafi nei confronti della maggiore potenza mondiale. Gheddafi ha detto quale differenza c'è tra l'attacco degli americani nell'86 contro le nostre case e le azioni terroristiche di Bin Laden, quindi ecco un paragone che sicuramente farà discutere. Ricordiamo che nel pomeriggio poi Gheddafi proseguirà la sua visita romana, sarà alle 18 in Campidoglio. Grazie Vincenzo Miglietta, sta ancora parlando Gheddafi, sentiamo ancora qualche secondo. No, ci sono anche dei problemi perché c'è la traduzione naturalmente in simultanea. Ecco, sentiamo qualche parola. In cui dall'Italia partono in altri paesi europei, quindi la Libia è semplicemente una terra di transito e l'Italia è una prima meta, ma la cosa riguarda tutta l'Africa e tutta l'Europa. Sta parlando di immigrazione. Più generale. Evidentemente sì. Torniamo però a noi, andiamo invece all'Università La Sapienza, dove è atteso che Gheddafi, tra non molto, quando finirà questo discorso, ci sono già cori di protesta e manifestazioni degli studenti che contestano il colonnello. Chiara Di Michele, buongiorno. Sì, buongiorno, qui c'è una forte attesa, gli studenti tutti in allerta ad attendere l'entrata del leader libico e la città universitaria oggi è veramente blindatissima, ci sono camionette dei carabinieri davanti alle facoltà, transenne, cordoni di agenti, gli studenti si sono dati appuntamento e anche al momento sono radunati davanti alla facoltà di lettere e filosofia che è adiacente al rettorato, il rettorato è off limits, il dispiegamento delle forze dell'ordine infatti non consente di passare e di attraversare la Piazza della Minerva. Gli studenti si fanno comunque sentire e insieme ad alcune associazioni, immigrati e movimenti di cittadini intonano molti cori, ad esempio Gheddafi e Berlusconi li vogliamo sui gommoni, oppure vergogna, vergogna, su uno striscione poi si legge Gheddafi e Berlusconi clandestini siete voi, insomma, fanno sentire la loro voce. Ricordiamo che la protesta è soprattutto contro il trattato tra Italia e Libia firmato lo scorso agosto. Al momento comunque la situazione è sotto controllo, però oltre alle forze dell'ordine italiane che sono a distanza, tra gli studenti si sono mescolati degli uomini che a vederli sembrano degli uomini di Gheddafi, probabilmente della sicurezza libica. Comunque è impossibile parlare con loro, qualcuno dice che non sa l'inglese, qualcun altro rifiuta il confronto. Comunque la situazione è sotto controllo, attendiamo adesso tutti quanti il leader libico. Grazie a Chiara Di Michele, il leader libico, ricordiamolo, che sta ancora intanto però parlando al Senato. E da aggiungere un'ultima cosa, che ha parlato oggi della vita di Gheddafi anche il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, secondo cui i libici sarebbero interessati ad aumentare la partecipazione in Eni e a partecipare all'aumento di capitale di Enel. E come saprete, ieri Gheddafi è arrivato a Roma con appuntata sul petto una foto. Omar al-Mukhtar, impiccato nel 1931, considerato l'eroe libico della resistenza anti-italiana. Alla sua storia è dedicato un film al periodo coloniale che questa sera si vedrà per la prima volta nel nostro paese, trasmesso da Sky Cinema dopo decenni di censura. So that's what it looks like. After all these years, we are the first to see him. In Italia è stato vietato per quasi 30 anni, il bando precisamente nel 1982. Uscito in tutta Europa, il leone del deserto fu proibito perché, per usare le parole dell'allora primo ministro Giulio Andreotti, danneggiava l'onore dell'esercito. Nel 1987 la Digos irruppe e bloccò con dispiegamento di forze una proiezione in un cinema di Trento. Il tutto si concluse con un processo. It is my one wish to see the Italian and the Arab together, our civilization and your culture, a marriage of virtues. All'inizio degli anni Ottanta, Muammar Gheddafi decise di finanziare un film colossal sull'eroe beduino Omar Mukhtar, il leone del deserto, con il meglio dello star system di allora. Il film raccontava le nefandezze compiute dal colonialismo italiano nell'Africa del Nord, quando l'esercito guidato dal generale Rodolfo Graziani deportò intere popolazioni seminomadi e istituì veri e propri campi di concentramento in cui regnavano denutrizione, stenti ed epidemie. Nel film Gheddafi fece inserire almeno una bugia, distinguendo il ruolo di Mukhtar dalla confraternita islamica dei Senussi, di cui re Idris era la bandiera. Voleva che diventasse un prode cavaliere solitario per potersene proclamare erede. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E andiamo ora in Afghanistan. Ci sono stati due attacchi contro militari italiani in poche ore, uno la notte scorsa, uno questa mattina, e ci sono feriti tra i nostri soldati. Adriana Fracchi ha raggiunto poco fa il maggiore Marco Amoriello del contingente italiano a Herat. Tre nostri paracadutisti della Folgore al momento sono ricoverati all'ospedale militare di Farah. Tutti e tre sono coscienti, due sono feriti più lievi, uno un pochino più grave, però nessuno dei tre risulta in pericolo di vita, quello che ci hanno detto i medici proprio qualche minuto fa. Quando è avvenuto l'attacco e con quali modalità? L'attacco è avvenuto questa mattina ad una ventina di chilometri a nord di Farah e gli insorti evidentemente si erano ben preparati perché hanno fatto un attacco meticoloso e preparato nei dettagli, infatti hanno attaccato contemporaneamente due delle nostre unità sul terreno. I ragazzi hanno immediatamente risposto al fuoco, hanno attuato tutte le procedure, infatti hanno eliminato diversi degli insorti che avevano messo in atto questo attacco nei confronti appunto dell'esercito afghano e nostro. Una serie di attacchi che si ripetono in questo momento, la situazione è particolarmente difficile quindi per il nostro contingente. Ovviamente in tutte queste zone dove ISAF, dove l'esercito afghano sta operando, sta ottenendo veramente dei grandissimi risultati e ovviamente questi danno fastidio agli insorti che hanno l'interesse totalmente contrario al nostro, cioè di stabilizzazione. Loro hanno quello della destabilizzazione. E dall'Afghanistan di nuovo in Italia, anzi in Europa, una contrazione, siamo ai dati economici, tra il 5,1 e il 4,1% nel 2009 e poi una possibile ripresa nel 2010. Sono le previsioni della BCE per il prodotto interno lordo dell'Eurozona. Secondo le stime contenute nel bollettino dell'Eurotower di giugno, per il prossimo anno è prevista una variazione del PIL tra il meno 1% ed un più, speriamo, 0,4%. E della situazione economica si è discusso questa mattina all'Assemblea di Confartigianato, dove c'era anche il Premier Berlusconi e dove c'è Andrea Viali. Buongiorno. Sì, buongiorno Anna. È stato proprio il Presidente del Consiglio, con un discorso di pochi minuti, molto più corto del consueto, a chiudere l'Assemblea annuale di Confartigianato. Nei giorni scorsi c'è stata la conferma che il governo può continuare a lavorare, ha detto subito Berlusconi, riferendosi ovviamente al risultato delle ultime elezioni. Continueremo a farlo, continueremo a lavorare con poche parole e molti fatti, ha assicurato il Premier, che poi ha anche voluto rispondere alle richieste che sono state fatte qui dal Presidente di Confartigianato Guerrini. Berlusconi ha parlato della riserva destinata alle piccole e medie imprese negli appalti pubblici, ha assicurato il suo impegno per limitare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, ritardi ha detto che sono un'eredità del passato. Berlusconi ha anche ribadito l'impegno del governo a favore del Made in Italy, del turismo, per il quale è stato creato anche un nuovo ministero. Poi ha anche esortato in conclusione gli imprenditori ad andare avanti con coraggio per superare questo momento di crisi. E prima di lasciare l'Assemblea di Confartigianato, Berlusconi ha salutato la platea con una battuta nella quale ha fatto riferimento alle sue vicende personali. Sentiamo cosa ha detto. Vi lascio alla continuazione dei vostri lavori, io devo scappare via perché sto combinando un matrimonio tra Noemi e, come si chiama quell'avvocato inglese? L'avvocato inglese? Tra Noemi e l'avvocato Mills, e naturalmente porto in dono l'offerta di un viaggio di nozze sugli aerei dello Stato a gratis. Avanti con coraggio, con fiducia, soprattutto nei momenti difficili viene fuori il vero imprenditore, che durante le crisi può guadagnare di più e guadagnare quote di mercato nei confronti di chi invece ha paura. Così dunque Berlusconi a Confartigianato. Notizia di questi minuti: l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha convocato per oggi un vertice d'urgenza. Alle 19 ore italiane potrebbe scattare l'allarme pandemia globale, il primo dopo 40 anni. Pandemia che scatterebbe per il famoso nuovo virus della nuova influenza, così fanno sapere dall'OMS. Alcuni paesi dicono di aver già ricevuto in questo senso comunicazione, una comunicazione ufficiale invece non è ancora arrivata in Italia. La nuova influenza, fa sapere l'OMS, ha colpito ormai oltre 27.000 persone in 74 paesi. Le vittime sono 141. Entro questa sera, come dicevamo, potrebbe essere deciso l'allarme di pandemia, che dovrebbe scattare alle 19 ora italiana. Vedremo se ci saranno novità. Tensioni in vista del G8. 6 arresti sono scattati questa mattina con l'accusa di terrorismo nei progetti delle persone fermate su ordine della Procura di Roma. Ci sarebbe anche stato un attentato in occasione proprio del G8. La circostanza sarebbe emersa da una serie di intercettazioni. Tra i fermati anche una ex appartenente alle Brigate Rosse. E in Sicilia politici indagati per il tesoro di Ciancimino, e scattano anche delle decisioni di chi lascia ormai l'antimafia. Sentiamo. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato dall'aver agevolato Cosa Nostra. È questa l'ipotesi di reato, secondo il Corriere della Sera, per la quale la Procura di Palermo indaga 4 parlamentari siciliani, il senatore PDL Carlo Vizzini e quelli UDC Salvatore Cintola, Saverio Romano e Salvatore Cuffaro. L'inchiesta è quella sul cosiddetto tesoro dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, condannato per mafia e deceduto nel 2002. Il senatore Carlo Vizzini proprio questa mattina ha confermato di aver ricevuto avviso di garanzia in relazione alle vicende del cosiddetto gruppo gas e, sottolineando di essere estraneo ai fatti ipotizzati, ha deciso di dimettersi dalla commissione parlamentare antimafia. L'inchiesta sui quattro parlamentari sarebbe scaturita dalle ultime dichiarazioni del figlio di Ciancimino, Massimo, condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio dei soldi del padre. Ciancimino Junior ha detto di essere un capro espiatorio ed ha parlato di altre persone coinvolte nella gestione dei soldi lasciati dal padre, compresi uomini politici. In particolare, Massimo Ciancimino avrebbe riferito di ingenti quantitativi di denaro che tramite il tributarista Gianni Lapis sarebbero finiti a Vizzini, mentre un'altra parte di soldi attraverso Cintola sarebbero finiti a Saverio Romano e all'ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E tra poco parleremo ancora di criminalità, non di mafia questa volta, ma di camorra. Avremo ospite intervistato ieri Roberto Saviano. Per il calcio intanto, notizia di oggi, il Manchester United ha annunciato il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, cifra da record, 93 milioni di euro. E siamo solo agli inizi del calciomercato, chissà quante altre ne vedremo, forse però così no, questo è un record veramente. Allora, adesso però parliamo di cinema, per la prima volta dopo 20 anni sarà un film italiano infatti ad aprire la Mostra di Venezia, giunta alla 66esima edizione. Si tratta di Bahia, scritto e sceneggiato da Giuseppe Tornatore. Micaela Nasca ha intervistato stato uno dei protagonisti, Beppe Fiorello. Noi sapevamo grosso modo di una trama, però ognuno di noi sapeva molto bene del proprio personaggio, perché credo che Tornatore giustamente abbia voluto lasciare molto segreto anche questo. Sembrerebbe molto retorico quello che dico e anche abbastanza forse banale, non lo so, però nel nostro mestiere poter passeggiare in un set e camminarci dentro, viverlo e avere il privilegio di essere poi parte di quel film. E beh, ho vissuto un sogno, quello di lavorare con Giuseppe Tornatore, che come tutti sappiamo è una nostra, è un'icona del cinema italiano nel mondo, quindi ecco, questa è stata la sensazione di grandezza. Credo che questo film possa essere un film molto personale per Giuseppe Tornatore, molto intimo, perché racconta veramente la sua vita, il suo paese, la sua città, forse anche parte della sua famiglia, i suoi amici, insomma ha rivisitato se stesso in qualche misura, ha rivisto un po' tutta la sua vita ed era commovente poi vedere la sua partecipazione emotiva in certe giornate di lavoro. Era commovente osservare i suoi occhi molto attenti, non solo di regista ma di uomo che aveva vissuto quello che lui adesso raccontava in finzione, perché la cinematografia comunque è anche fingere di fare, di raccontare una storia, ma in questo caso la finzione era limitata perché stava raccontando parte della sua vita. Le 13 e 21 minuti e GR24 Extra Large. La questione meridionale esiste ancora. Parole di Roberto Saviano, ospite ieri qui nella nostra redazione in una chiacchierata con Marco Alfieri del Sole 24 Ore, Raffaella Calandra di Radio 24, l'autore di Gomorra, in uscita ora con un nuovo libro, La bellezza e l'inferno, legge e commenta molti temi di attualità. Sentiamo. Questi dati come li ha letti lei? L'astensionismo innanzitutto appunto è stato un danno ennesimo alla, come dire, alla possibilità di poter sognare una partecipazione reale e attiva alla cosa pubblica, diciamo. Il Sud continua a essere un bacino enorme di voti facili. Con voti facili intendo dire voti acquistati per poco o nulla. C'è sempre stato il voto di scambio, è sempre stata una prassi comune alla politica italiana, ma negli anni 70, negli anni 80 il voto di scambio era incentrato su un voto, un lavoro. Adesso 50 euro, 25 euro, un cellulare, partecipazione ai corsi di formazione professionali. Sono diventate le nuove monete, le nuove prebende di larga parte della politica meridionale, non soltanto. Il dato dell'astensionismo è un dato preoccupante perché sulle europee, dove c'era meno la possibilità di guadagnare dal voto, le persone non sono proprio andate. Nelle amministrative si guadagna invece tanto, guadagno un affitto di casa, guadagno la spesa pagata. In genere quelli che mappano sistematicamente le forze dell'ordine locali e che poi hanno difficoltà a dimostrare il voto di scambio, perché non c'è quasi mai una prova. Questa terribile peste del voto di scambio è uno dei maggiori responsabili della

13:38, torniamo in studio con le notizie di oggi. Gheddafi al Senato attacca l'America e gli Stati Uniti nel 1986 come Bin Laden, e sull'immigrazione, per fermare i flussi, la Libia ha bisogno di diversi miliardi di euro. Colpita una pattuglia italiana in Afghanistan, 3 militari sono rimasti feriti, 1 è grave. Berlusconi dagli artigiani, rassicura sulla crisi e poi scherza, scappo per andare al matrimonio tra Noemi e Mills. Parlamentari siciliani indagati per il tesoro di Ciancimino, Vizzini lascia l'antimafia. Roberto Saviano a Extra Large, la questione meridionale esiste ancora dopo dalle elezioni alla nuova alleanza criminale, l'incontro con l'autore di Gomorra. Affare da record per il calcio, Cristiano Ronaldo al Real Madrid per 93 milioni di euro. E ripartiamo adesso con le notizie dall'estero. Domani l'Iran va al voto per le elezioni presidenziali. In diretta da Teheran Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Inviato del Sole 24 Ore. Queste ore immediatamente precedenti al voto, come vengono vissute in Iran? Quali sono i temi proprio dell'ultima ora, Alberto? Beh, diciamo che questa è la giornata apparentemente più calma dopo le grandi manifestazioni che hanno riempito le piazze nei giorni scorsi a Teheran, soprattutto quelle dell'opposizione del candidato Mirosei Mousavi, che con le sue bandiere verdi e con questi migliaia di giovani ha riempito non solo le piazze di giorno ma anche nelle ore notturne con grandi raduni. Ahmadinejad ha risposto ieri con un discorso televisivo in cui ha replicato agli avversari, in uno scontro che appare molto duro, non tanto tra i votanti e gli elettori iraniani, quanto proprio tra il vertice rappresentato dalla guida suprema Ali Khamenei, che appoggia Ahmadinejad, e un altro protagonista della politica iraniana, che era Sfaggiani, che invece appoggia il candidato dell'opposizione Mirosei Mousavi. Alberto, quanto conterà il voto delle donne? Il voto delle donne sarà importante, non solo perché ovviamente le donne sono la metà della popolazione iraniana, ma perché in tutti questi ultimi 30 anni hanno guadagnato sempre di più posizioni dentro la società, sono diventate sempre più attive, il 60% degli iscritti all'università sono donne, sono ormai il 35-40% della popolazione attiva del paese. Stanno appunto occupando posizioni sempre più importanti e forse sono decisive per il voto, e forse prima o poi diventeranno anche dei leader politici. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, lo ritroveremo naturalmente spesso, anche domani naturalmente, il giorno delle presidenziali in Iran. E dall'Iran facciamo un passo e ci spostiamo in Armenia, un paese sul quale si concentra l'attenzione dell'Unione Europea con una serie di aiuti economici proprio in questo periodo. Perché? Lo chiediamo all'inviata di Radio 24, Cristina Balottelli. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti. Come sapete ci sono appena state le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, forse però non tutti sanno che delle nostre tasse una buona parte, circa 200 euro, vanno all'Unione Europea, la quale ha delle politiche di sostegno anche di paesi extraeuropei come appunto l'Armenia, e tra queste decisioni della Commissione Europea ci sono i finanziamenti a circa 140 paesi, tra cui c'è l'Armenia, paese di cui si parla pochissimo, che si trova tra due continenti, l'Europa e l'Asia, è un paese poverissimo che solo di recente è diventato indipendente, prima infatti era sotto la sfera comunista, la sfera dell'Unione Sovietica, non conosceva la democrazia e si sta lentamente abituando, è un paese abituato ad avere gli aiuti di Stato, è un paese tra l'altro che non ha buoni rapporti con i suoi vicini come l'Azerbaigian per il conflitto per il controllo del Nagorno-Karabakh, e la Turchia, che a oggi non riconosce le sue responsabilità sul genocidio degli armeni. Per questi motivi l'Armenia è partner strategico dell'Iran, nonostante le differenze ideologiche e religiose, l'Iran è un importante partner commerciale dell'Armenia. Ci troviamo qui con Milena Corradini dell'agenzia ETF, che ha base a Torino, che ci spiega quali sono le finalità dei finanziamenti dell'Unione Europea in Armenia. Buongiorno a tutti, l'obiettivo del supporto supporto finanziario che è dato dall'Unione Europea all'Armenia è mirato principalmente a promuovere la riforma della pubblica amministrazione, del sistema giudiziario e dell'istruzione e anche di misure per lo sviluppo economico per combattere la situazione di povertà, che in particolare la caduta del muro di Berlino dell'Unione Sovietica ha lasciato l'Armenia in condizioni di estrema povertà. Non solo per questo, ma anche per il terremoto che c'è stato nel 1988, che ha lasciato tantissime vittime, e successivamente anche per la situazione appunto con l'Azerbaigian. Ovviamente l'Armenia, come tanti altri paesi, ha dovuto attraversare una fase di transizione per andare verso l'economia di mercato. Questo significa nuove esigenze da parte del mercato del lavoro, nuove professioni, e questo significa anche altri tipi di formazione professionale, altre esigenze. L'ITF, la mia agenzia, dà punto e supporto al governo almeno per utilizzare al meglio i fondi stanziati dall'Unione Europea. Le scuole professionali in Armenia sono state molto trascurate anche durante l'epoca sovietica, sono in condizioni gravissime, non consentono di dare gli strumenti agli studenti delle condizioni decenti di lavoro, parliamo di tetti che non tengono, non sono sostenuti abbastanza, o edifici che soffrono tuttora del terremoto di oltre 20 anni fa, o parliamo di mancanza di riscaldamento, di infrastrutture, finestre, porte, pavimenti. Stiamo con questi fondi tentando appunto di mettere queste scuole allo stesso livello di quelle che sono poi i licei, perché esiste una grossa differenza tra le condizioni delle scuole professionali e i licei. Le scuole professionali sono considerate scuole di seconda qualità, in quanto più che altro ricevono studenti della società dello strato medio-basso, quelli che hanno dei redditi più bassi, pertanto un sistema, se vogliamo, educativo discriminante per quanto riguarda una fascia della popolazione. Bene, grazie a Cristina Balotelli dall'Armenia con la sua ospite. Adesso restiamo all'estero, andiamo rapidissimamente sulle pagine dei giornali stranieri con Giulia Crivelli. Buongiorno Giulia. Buongiorno, cominciamo dalla Spagna, che ha una copertina dedicata a un argomento che purtroppo in Italia conosciamo bene, che è quello degli incidenti sul lavoro. C'è una recrudescenza del fenomeno in Spagna, o comunque vengono denunciati di più. La foto di copertina di El País è di una persona che ha perso un braccio in un incidente sul lavoro. Il problema è particolarmente grave tra i cosiddetti sin papelas, cioè gli immigrati irregolari, che spesso fanno lavori pesanti e spesso lo fanno senza assicurazione, senza rispettare la sicurezza. Si spera anche in Spagna, scrive El País, che vengano varate delle misure per diminuire questi incidenti sul lavoro. Grazie Giulia Crivelli, siamo un po' in ritardo, ti ritroviamo però domani con altre curiosità dai giornali stranieri. Notizie dell'ultima ora: nel frattempo ci sono scontri all'Università La Sapienza, così almeno dicono le agenzie, tra polizia e studenti. Doveva arrivare il colonnello Gheddafi, che torna però a Villa Panfili, per il momento visita rinviata se non ancora sospesa. Dicevamo scontri, cercheremo di capirne di più. 13:48 minuti e ancora GR24 Extra Large. Allora andiamo subito all'Università La Sapienza per capire come sono questi scontri tra la polizia e gli universitari che protestano. Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Qui ci sono stati momenti di tensione che però si sono limitati a tafferugli e la situazione al momento è tornata sotto controllo. Praticamente i tafferugli, gli scontri con la polizia sono partiti quando gli studenti a un certo punto hanno acceso fumogeni e lanciato oggetti come arance o bottigliette di plastica vuote. In questo momento poliziotti, carabinieri e studenti sono ancora faccia a faccia. Qualche studente però ha appena invocato e deciso: facciamo un corteo, prepariamo la testa del corteo, però al momento insomma la situazione è tornata tranquilla. Grazie Chiara Di Michele. Nel frattempo ricordiamo però non dovrebbe arrivare invece il leader Gheddafi, che è tornato indietro. non l'Italia della P2, ma l'Italia pulita, democratica. Era il 7 giugno del 1984. Queste sono tra le ultime parole di Enrico Berlinguer, il segretario del Partito Comunista, che morirà 4 giorni più tardi dopo aver avuto un malore al comizio a Padova. Era il comizio per le elezioni europee. 25 anni dopo, con gli eredi del Partito Comunista fuori dal Parlamento italiano e ora anche da quello di Strasburgo, oggi qual è l'eredità che Berlinguer ha lasciato? Daniele Biacchessi. Di questi tempi dove i leader politici si azzuffano su veline, rapporti con ragazze e divorzi, la figura di Enrico Berlinguer diventa la risposta ai valori più alti della politica. Berlinguer comprese infatti prima di altri la deriva e la degenerazione del sistema politico, imponendo nell'agenda dei partiti la cosiddetta questione morale. Non riuscì a portare fino in fondo la sua battaglia di etica politica perché fu colpito da un malore mentre chiudeva a Padova la campagna elettorale del Partito Comunista Italiano per le europee, ma lui vuole andare avanti fino in fondo, fino all'estremo sacrificio, bevendo acqua, togliendosi e rimettendosi gli occhiali, con il fazzoletto sempre alla bocca, cadendo e rimettendosi ancora in piedi, e poi con quelle sue ultime parole: lavorate tutti dialogando sulle vie della pace e della solidarietà. Ha fatto bene il presidente della Camera Gianfranco Fini a ricordare che nel richiamo tra etica e politica di Berlinguer si esprime lo spirito della nostra democrazia e che deve essere il valore condiviso di tutti gli schieramenti. Fini, il delfino di Almirante, che andò da solo e senza scorta ai funerali oceanici di Berlinguer perché disse l'allora segretario del Movimento Sociale: io non dovevo temere nulla perché non vi era nemica. Erano altri uomini di altri tempi che lasciano però un'eredità ancora attuale. Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. E vabbè, che cosa resta del Partito Comunista? Vogliamo provare a scherzarci un attimo anche con Luca Telese. Buongiorno Luca. Ciao, buongiorno. Collega giornalista, autore del libro Qualcuno era comunista. Insomma, scherzarci, tu è un'opera anche abbastanza voluminosa, un viaggio nel post, diciamo così, svolta 1989. Però la domanda secca che ti vogliamo fare, Luca, a questo punto è questa. Secondo te, visto che te ne sei occupato, quanto pesa la storia di questo Partito Comunista, di cui tu ti sei appunto occupato, sugli successi che insomma oggi gli eredi, evidentemente quelli più di sinistra, diciamo così, raccolgono? Guarda, da moltissimo. A me piace raccontare una storia, le storie, ma le storie di quel giorno, di 20 anni fa, quando è caduto il muro di Berlino, sono interessanti e anche attuali, perché è lì che si è smarrita la strada, cioè sotto le macerie del muro sono rimaste sepolte le due grandi culture di sinistra del Novecento italiano, quella socialista e quella comunista insieme. E allora si può solo tornare lì per ricapire dov'è che si è persa la strada. Beh, ci dobbiamo fermare qua. Grazie Luca Telese, non abbiamo moltissimo spazio, siamo in chiusura, 13:53 minuti. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. Anna Migliorati. Le notizie di oggi. Sì, Gheddafi al Senato attacca l'America, gli Stati Uniti nel 86 come Bin Laden. Poi sull'immigrazione, per fermare i flussi, la Libia ha bisogno di miliardi di euro. Tafferugli alla Sapienza tra studenti e polizia, Gheddafi rinuncia alla sua visita. Colpita una pattuglia italiana in Afghanistan, 3 feriti, 1 è grave. Berlusconi degli artigiani rassicura sulla crisi, poi scherza, scappo per andare al matrimonio tra Noemi e Mills. Parlamentari indagati per il tesoro di Ciancimino, Vizzini lascia l'antimafia. Affare da record per il calcio, Cristiano Ronaldo al Real Madrid per 93 milioni di euro. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Anna Migliorati, Alessio Maurizi in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci e in regia Pietro Lacorte. L'appuntamento domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.